Cercheremo di conoscere meglio il quadro sia dalla prospettiva interna, quindi questo sarà, come dire, l'oggetto del restauratore di Marco Fumagalli, sia dalla prospettiva di contesto. Cercherò prima di entrare nell'immagine del restauro, di trasferire il fatto che un quadro non nasce mai. Un dipinto, soprattutto un dipinto sacro, c'è sempre un contesto che lo genera, un contesto che inizialmente è unico, perché una parrocchia non è uguale a un'altra parrocchia, perché ci sono dei punti e delle evoluzioni che rendono unici l'unità di una parrocchia, e tutto questo si può essere un'idea. Thank you. San Francesco d'Assisi, di cui appunto oggi ricorre la memoria, e guardo questo lato, non vorrei che la cosa che non è ancora stato certo. Ora possiamo in qualche modo smentire alcune pagine si è scritto su questo quadro. Non è un quadro che come dire non è mai stato studiato, è sempre stato tenuto nascosto. Gli storici dell'arte, chi ha studiato Giovanni Bastianoni, ce l'avevano presente. Se fate delle ipotesi su questo quadro casuale, cercheremo di capire quale di queste ipotesi che la mia prendere. Però, cerchiamo prima di riconoscere il contesto. Il punto di partenza è abbastanza facile. È un quadro che è chiaramente una mostra dell'arte. È un quadro firmato alla base, su questo cartiglio, proprio sotto la croce. Purtroppo la firma è molto consumata e anzi il restauro ha anche restituito una originalità, perché se voi vedete la fotografia per esempio degli anni 70 ci sono più lettere, però queste lettere indicano la struttura originale, ma magari c'è anche qualche il restauro invece ha riportato in luce la parte originale. La parte originale è forse non sarebbe sempre un caso, nel senso che non è l'unico elemento, forse della storia dell'arte antica, non è neanche l'elemento principale dell'economia. Vedremo dei confronti ed è chiaro che questa opera è di Giovanni Battista Moroni, perché incarna in qualche modo il suo stile, ed è un'opera che davvero riesce a raccontare le due grandi attenzioni che Moroni ha, che sono appunto quella del ritratto e quella di una pittura devota e capace di, in latino si sarebbe muovere, diciamo, di emozionare, di suscitare quei sentimenti senza eccessiva enfasi. Qua, questo quadro, queste due grandi capacità di Moroni, volti da vicino, vedremo come sono volti, come dire, molto di maniera, ma volti che invece prendono dalla realtà. Ci facciamo aiutare però da qualche fonte storica. Una fonte storica, la prima si parla chiaramente del mondo, è una fonte totale. Siamo nel 1660, quindi siamo quasi 100 anni dopo, però almeno ce lo colloca in un ambiente, in detta chiesa di San Crisoforo, la citata prima da un parroco, quindi una delle due chiese parrocchiali che erano ufficiali prima che fosse costruita questa chiesa, vi sono diverse culture, tra le quali venivano Giovanni Questa è la prima notizia che noi abbiamo. Chi ce la dà? Ce la dà Padre Donato Cardi, che è in qualche modo una miniera preziosissima per la storia dell'arte della Croce. Lui scrive la sua più grande opera, si chiama Le Cimeride Sacrofane. È praticamente un grande almanacco, una grande enciclopedia in cui racconta però il giorno dell'anno tutti i fatti straordinari che quell'anno, quel giorno esatto, sono successi. Quindi non è una cronologia che va di anno in anno, ma va di giorno in giorno. Poi tornerà per un altro racconto legato a seriale e finale. Però è un'opera monumentale, una grande opera storiografica del 600 per scriverla ci chiede 10 anni. Cosa fa? Per scriverla, ma non questa è una questo scenario, che questo scenario illuminato per la parrocchia di Seriate, viene citato proprio il dipinto di Mondolino. Questa è comunque invece la parte dedicata alla chiesa di Santa Isola. Ve la leggo perché oggi saranno dei dettagli ulteriori che ci servono per collocare bene questo quadro. Nella terra di Seriate si trovano due chiese parrocchiali, una dedicata a San Cristoforo, l'altra a San Isola, quali tutte e due anticamente erano parrocchiali separate. Questo appunto perché essendoci le due chiese garantivano, come dire, una cura d'anime minimo, nessuno su mai il ponte non fosse stato praticabile, quindi prima la musica di San Cristoforo, le cui primissime notizie sono datate al 900 dopo Cristo, quindi la chiesa antica. La chiesa di San Cristoforo invece è una chiesa più recente, di cui si ha dato in questa canzone che è datata ai 1500. Chiese separate, quali poi sono unite, unite anche le due pontifici del continente, ecclesie unite, Sant'Oro, Cristoforo e Crisologo. E saltiamo un pezzettino, e poi c'è la foto di San Crisologo. Nella chiesa poi di San Crisologo non si ha notizia alcuna della consecrazione, questo perché appunto lui poi chiedeva il padre, in questo caso non si ha. In questa ci sono cinque altari, tra i quali uno è il banchevole, che marmo finissimo, nuovamente fabbricato, a nome dei santi Canzio, Canziano, Canzanilla, qua dovrebbe accendersi una lucina, perché è un punto che poi dalla chiesa antica di San Crisogono è sbarcato in questa chiesa, soprattutto in questo altare, dove una tela del 700 racconta il martirio di questi tre santi. Anziano, nel quale si hanno da riponere i corpi di San Cristoforo e dei santi. A tale effetto fabbricato nella chiesa di San Cristoforo ci sono diverse pitture, tra le quali il di Giovanni Battista Bordone, celebre. Questa è appunto la tela che si vede tutt'oggi nella vostra chiesa, che è una tela che non c'entra probabilmente con la chiesa di San Cristoforo, tarda, però è una tela che attesta il culto di questi santi che sono legati a storia, lo scopriamo poi nel secondo momento, alla vita che la tradizione ci consegna di San Crisogono. Da questa chiesa, quindi dalla chiesa che ormai ma non è stata più luogo di culto, questo quadro dove non c'è ancora, dove la notizia è quella del nostro Donato Calvi, un altro storico nel 1800 ce lo racconta qua in questa chiesa, per cui non abbiamo dato di commissione, abbiamo una notizia del 1660 che ce lo dice invece nella chiesa di San Crisogono, abbiamo un'altra notizia del 1820 che ce lo dice invece in questa chiesa. Ce la dà? Ce la dà Giovanni Marino nel suo dizionario. Parlando di Seriate, dice la sua chiesa ci rispetterà sotto le invocazioni dei santi Cristoforo e Crisologo di antica struttura, restava sulla destra sponda del fiume. Ora si è rifabbricata sulla sinistra un magnifico disegno ed è una delle più belle che si aprono nella provincia. Ora è sotto l'invocazione del Santissimo Redentore, alla solita festa della inoltre un quadro opera del nostro mondo, nel quale è stato prefisso con i santi Zorro e Cristoforo ed un altro santo e vive la voce. Questi insieme di cura si conserva in sacrestia. Si notava da lì un altare che si evidentemente l'altare non è ancora stato. Quindi di fatto quando questa tela dalla chiesa antica di San Cristoforo viene trasferita, perché con l'uomo lì viene chiuso al punto, passa in questa chiesa, ma in questa chiesa non trova subito o non troverà mai era già ficcata, il vescovo l'aveva già dedicata questa terza. Ecco qua, infatti, c'è la terminologia. Se dovessimo in qualche modo poi capire in che anni effettivamente viene trasferito il quadro in questa chiesa, siamo sicuramente nella seconda metà del 1700. Nel 1756 il vescovo dà l'okay per costruire la nuova chiesa. Gli anni effettivi veri del cantiere sono il 1769 e il 1778, gli anni in cui si porta avanti la parte più grossa del cantiere, in cui viene costruita la navata, in cui c'è appunto il 1774 sulla volta scritto. L'altare maggiore viene costruito in realtà dopo, quindi siamo al 1790, nonostante il buon Giacomo Quaregna avesse già fatto il progetto alla metà del 1700. Nel 1808 il vescovo Giovanni Paolo Bonfina dedica la chiesa, ma il Rendaconte scrive nel 1820. Quindi anche questa chiesa ormai aperta al pubblico, ormai dedicata, era già, non era ancora completa perché molti altari laterali si aprivano, però negli altari laterali non si è ritenuto di collocare l'opera che invece è sempre rimasta in sacrestia. Qua abbiamo messo giusto un accenno al destino che diverse opere sono disponibili, non è l'unica opera di Serrante che viene dalle chiese. Questa, per esempio, non so di toccare un tasto dolente, però viene dalla chiesa di San Cristoforo. Stessa cosa, anche questa conservata qua, questa poi appunto è legata anche a un furto e a un'istituzione che è in atto. Però questa chiesa raccoglie opere, ma questa chiesa che si può vedere, che provengono dalle prime chiese antiche. Non è automatico, però, che queste opere vengono innanzitutto percepite per la loro portata, la loro rilevanza storica, e quindi vengono messe in sacrestia. Non vengono neanche in qualche modo ritenute adatte alla devozione di metà, di inizio, metà 800, ci sono altre devozioni, e infatti le sculture e gli altari che adornano le navate laterali di questa chiesa raccontano altre devozioni. Ritorniamo con la nostra. Abbiamo capito da dove viene. Non sappiamo precisamente quando entra in questa chiesa. È firmata, non è datata. Quindi collochiamola nella produzione di Giovanni Battista Mondoni. Fortunatamente ci viene in aiuto un confronto piuttosto semplice. Vedete le due costruzioni, la vostra e quella della chiesa invece parrocchiale di Albino. Belle entrambe. No, non abbiamo niente da fare di più, certo, stasera la vostra fronte. Però in qualche modo queste due, innanzitutto costituisce un termine di paragone. Sono due opere così simili, sia per dimensione, non è verificato, però è molto probabile che Moroni utilizzi o lo stesso cartone, lo stesso disegno, perché vedete che i due Cristi sono praticamente sovrapponibili. La vostra è un pilare, quindi le proporzioni sono percepite in modo diverso, c'è una fila di santi in più, quindi Albino stretta un po' di più, c'è questo, però le misure sono importanti. L'altezza è la stessa, balla un centimetro. Vi ho messo un'altra crocifissione insieme di Moroni per vedere che ci sono degli accostamenti che aiutano, che aiutano per somiglianza, e degli accostamenti che aiutano per differenza. Questa, per esempio, è una crocifissione che appartiene a una fase più giovane rispetto alla vostra. una fase che viene definita maniera, una fase in cui Moroni guardava una pittura un po' più enfatica, guardate i gesti di questi personaggi, o i volti, sono molto belli, ma abbiamo da poco presenti, poco dolenti, e guardate il visto, parte delle proporzioni che sono molto diverse, ma anche il trattamento. Il Cristo, questa è un'opera che è a Bergamo, dalle scuole della Beata Capitano. Il Cristo è proprio diverso. Se qua posso immaginare una realizzazione molto vicina nel tempo, qua il tempo è passato. Moroni ha anche cambiato stile, ha cambiato approccio, cerca qualcosa di diverso. Spingiamoci un po' di narrazione, sempre incrociando tra storici e opere d'arte. Nel settembre 75, Serrati viene visitata nella grande visita apostolica di Campo Borromeo. Il visitatore apostolico di Serrati è il canonico Francesco Porro. Negli atti della visita apostolica, Sant'Isocolo scrive come abbastanza ampia la struttura elettrica, senza finestre e disadorna. Carlo Borromeo è uno che non va mai bene, quindi sono giudizi che ritornano in moltissime chiese, quindi non era particolarmente buia e disadorna rispetto alla tutte le altre. In ogni caso c'è un dato che ci colpisce. In uno era allocato la parte del nostro soldo, evidentemente non è la nostra parte, e sull'altro altare invece è indicata la Madonna, una tela vecchia e indecenza. Le opere di Moroni non vengono mai definite indecenti, ignoranti, ma indecenti non vuol dire gli aggettivi che Carlo Borromeo sui visitatori utilizza per le opere di Moroni sono sempre o pulcra o decens. Questo perché c'è una bellissima consonanza tra la spiritualità severa di Carlo Borromeo e la traduzione figurativa che ne fa Moroni. Possiamo dire che c'è davvero una comunione di intenti tra il cardinale e il pittore. Non è Moroni un artista che si piega alle indicazioni di Carlo Borromeo per compiacere o per avere delle commesse. C'è in qualche modo un'autenticità, una spiritualità di Moroni che trova un sincero rispecchiamento delle indicazioni che Carlo Borromeo stava dando alla sua regione ecclesiastica. Ecco perché le opere di Moroni vengono sempre definite o pulcre o decenza. Infatti, la buona opera di Albino, come viene definita, la società di San Bernardino, è un'icona. È molto probabile, non certo, che quando Carlo Borromeo, Albino è stata effettivamente visitata da Carlo Borromeo, invece, ha anche dormito sera, quindi lo vede di prima mano, proprio. Ed è molto probabile che quell'icona pulcra sia di Albino, perché riusciamo a incrociare tra le parole di un'intensa e soprattutto, appunto, come dicevo, grazie ai tecnici che sono questa famiglia Pulzini, che era una famiglia molto vicina alla famiglia di Moroni, tant'è che Giovanni Battista Moroni per tre volte è testimone agli atti tradizionali di questa famiglia. Perché sto parlando di questo? Per dire che evidentemente nel 1575 quell'icona dei Cens non poteva essere un posto così fisso. Evidentemente nella chiesa di San Isidoro al settembre 75 non c'era ancora quel dipinto. per cui possiamo collocarlo tra i 76 e i 79, che poi sono gli anni estremi. Questo lo possiamo fare confrontando i dati appunto e le immagini. Abbiamo più sulla cognizione di questo però si sa molto. Non c'è ovviamente un contratto, però nella vita di Moroni, uno storico l'ha studiata molto bene e ha in qualche modo sbucciato gli archivi notari di tutto Bergamo. Tiraboschi, molte volte capita che i mercanti di Albino possedessero terre o case in altri paesi della diocesi e guarda caso questi paesi diventano poi luoghi di committenza d'opera del Albino. Ho messo giusto tre casi, i Belvoli a Parla, i Cavini a Unita, anche se di competenza chiara non c'entra con gli spiriti. A Seriale c'era. A Seriale c'erano due fratelli albinesi, Gian Giacomo e Alessandro, nel funicolo di Arsolini. È una pista, è tutta da studiare, non abbiamo quindi, però sappiamo che effettivamente questi due fratelli originali del Albino avevano case e terre a Seriale. Quindi sarebbero potuti essere loro in qualche modo i tramiti che potevano portare ad Albino. Lo scenario è in qualche modo, spero di averlo tracciato, stringendo tutti i dati che possediamo, quelli almeno geografici e storici. Quindi una opera tarda da collocare appunto tra i 66 e i 79, un'opera che è stata commissionata per una chiesa, quella di San Crisologo, che non è più una chiesa ufficiata, e che è venuta in questa chiesa tra la fine del 700 e l'inizio dell'800, che in questa chiesa non ha mai avuto una collocazione sull'altare, ma che è sempre stata conservata in sacrestia. Infatti torniamo alla nostra chiesa e riprendiamo, entriamo nella sacrestia e raccontiamo in realtà la storia parallela dei vicini restanti. Quindi noi ritorniamo in sacrestia e adesso passo la parola. Buonasera. Questa è un'altra fotografia presa con il gradimento del cellulare, quindi abbiamo pochi dati a disposizione. La cosa che però potete già notare è il fatto che fotografando il quadro di traverso si vedono le date, alcune piccole prove di pulitura per ovviamente per capire cosa c'è sotto, qualcosa dovuto togliere. Acqua, semplicemente, per togliere la polvere. Quindi il primo impatto che non è stato attore da secondare. Solo della materia, per quale quindi niente storia dell'arte, magari qualche luce come è stato definito, però parliamo della carta di questo teatro. Qui come potete vedere, delle zone più scure. Le zone più scure sono semplicemente dei materiali meno antichi di quelli originali. Non sto a raccontare la fisica dell'assorbimento della luce, eccetera, che penso sia abbastanza noioso, però sostanzialmente la ripresa con la lampada a un inizia a rivelare che ci sono i risultati che fanno più recenti. La cosa che si nota di più, non posso salire, comunque sono quelle due regole importanti. Perché? Perché Moroni in questo quadro, come era solito fare per certe dimensioni, in tre piene, due all'altezza piena, in orizzontale, e uno un po' più piccolo sotto. Perché? Perché telegrafi al tempo non c'erano, non c'erano anche l'aria abbastanza grande. Sì, comunque lo vedete, no? Le righe sono abbastanza evidenti, se c'è qualcosa in calore. Si vede poco, però se prendono due fotografie un po' più grandi, la parte bassa presente nel palco è molto sulla direzione a dire. Quando un restauratore vede queste cose dice, qui c'è un restauratore, quindi o c'è del colore più decente, o ci sono addirittura dei punti. Un'altra cosa curiosa è che questo tiene di punti di tutto sono la chiodatura originale che Monti aveva fatto sul palco. Tirava la piena su telaio di vetro che non era mai dava la dipingeva, la staccava, la metteva su un filo, probabilmente per questioni di trasporto. Quindi ci sono più fili di filo. E qui già un restauratore mi offre delle informazioni, quindi sa dove ci sono le mancanze, o meno. Sa anche un'altra cosa notevole, ci sono delle parti. In questo caso il principale buono che è quasi sempre vernice che si sta deteriorando, il famoso restauro degli anni 70, ma tante volte anche precedente. Ecco, questo è il primo approccio di un restauratore a iniziare a vedere come è stato dipinto, quindi togliere ciò che davanti ci sta. Facciamo una piccola parentesi. Il restauro del 79 è fatto da restauratori che ormai in pensione, che ho sentito telefonicamente Marco che ha dato un po' la storia di questo quadro, poi ho trovato altro materiale, non hanno rovinato il quadro, l'hanno salvato, perché il colore, cioè la pittura olio, è ben attenta alla tela, e la tela sta in piedi, chiusa sul telaio, perché loro hanno fatto questo intervento. Il problema del giallo e della polvere ce l'abbiamo tutti a casa sui mobili e la vernice purtroppo col tempo e radiazione eccetera si deteriora e tende a diventare gialla. Questo è normale. Quindi, no, lasciamo male. Il primo approccio di un restauratore è quello di iniziare a togliere quello che non è un quadro, che non appartiene al quadro. Quindi prende dei cotoncini sulle cartucine, il cotofono, chiamiamoli così, e fa una prova di colore. La prima prova era quella che vedete prima con l'acqua solo in questa parte qui. La parte più a sinistra, segnata in quattro colori bianchi. Serve registrare tutti i passaggi fotograficamente, perché una volta tolto non si torna indietro. Quindi, progressivamente, si fanno delle prove. Quindi si trovano dei solventi, vengono addirittura archiviati i cotoncini con la data quando sono fatto come si era detto questa cosa. Questo sono gli spazi fatti. Vedete già che con tre prove di pittura, cioè tre cotoncini un po' più, con un solvente un po' più forte, magari si può dire appunto una ricetta, ma non è così interessante. Si inizia a togliere la prima parte. Strati di vernici, i primi strati, sempre più convinti di quello che si sta facendo. banalmente tutto ci si sporca un diciamo che niente di più, quindi se si pulisce la spalla di Cristo in giallo non si viene bianco, perché conta un colore che ha 500 anni, non conta una vernice che ha 50, ciò lascia il tempo anteriore. Quindi si va avanti, si va con le pulitura, si fotografa continuamente. Questa è la mezza pulitura, metà strada. Quindi Cristo è pulito per metà, funziona, Crisoro è pulito per metà, vedete che all'altezza del viso si inizia a vedere la cintura delle due tele. La fotografia di prima, quella più vasta, che era giusto, rivelava un segno nero perché lì la tela si è staccata leggermente, quindi le storie precedenti hanno messo nello studio e gli viene rivelato. Tutto recente. Perché il colore giallo non è suo, è stato messo dopo, semplicemente. Però capite che un restauratore quando trova davanti a una situazione del genere si spaventa un po', perché come vi ho detto prima, indietro non si torna. Quindi fa una prova un po' più aggressiva, un po' più approfondita, si allarga un attimo, le pieghe rimangono le stesse, ma sotto inizia a uscire la storia qui. Cosa fa? Passa un altro metodo di indagine, si fa anche di solito, ma non dà dei risultati così eclatanti. Prende il microscopio e inizia a fotografare. Ho scelto solo due immagini, ma credetemi che con il microscopio mi fa tutto il giro per capire come mai. Il colore giallo di prima è quello che fa quei puntini gialli, chiari, scuri, eccetera. Lo stesso tipo di giallo lo trova questo nero che è una vecchia stuccatura, lo trova anche sulla stuccatura, una stuccatura recente che può avere centinaia d'anni, perché Moroni non aveva stuccato il palo di sicuro, si trova lo stesso giallo, quindi quella è un po' le grafiche del fatto che questo giallo è stato messo dopo, addirittura sopra una stuccatura. Vi posso dire che è un giallo steso con olio di lino, quindi è la stessa pittura di Moroni, solo che il divario tra i due colori è di circa 500 anni. Si allarga un po' di più. Questa operazione nel restauro precedente non è stata fatta. Perché? Non si sa, perché qui c'è la direzione dei lavori, c'è la sovrintendente che segue il restauro, c'era anche i tempi. I tempi di intervento magari erano più stretti, quindi ho detto fatta la sverga perché c'era la mostra del 69, non ci serve il quadro, eccetera, eccetera. I motivi non li so, nemmeno negli anni. Però quando mi trovo davanti a questa situazione chiamo spesso il dipendente, poi si sa, abbiamo discusso la cosa assieme, gli ho spiegato le ragioni valide del fatto che questo giallo non fosse giallo, cioè non fosse originale, e appunto abbiamo deciso di andare a più. Ci si allarga un po' di più, si vedono le partite di colore, le parti nere, no? Il colore che ha quindi rivela perché è stato dipinto, la frase era rovinato, e allora invece di chiudere i bottini come si fa oggi nel 2021, si rifà tutto. Ho anche un'altra idea sulla nota. E quindi questo è il risultato finale, cioè il quadro pulito con i buchi anche sul verde, come vedete ce ne sono tanti, che erano i famosi le zone scure che si vedono un po' in proiezione. E questa è la risultata finale. Quindi non ho fatto nient'altro che tutti i buchi, iniziare a ricostruire il volume del mantello e dargli un po' cercando di ricostruire quello che volevo avere in testa e volevo effettivamente fare. Credetemi che non è facile, cioè quando avete un quadro che prima già lo era, già lo è rimasto, di sotto vedi qualcos'altro, decidere di togliere tutto è abbastanza coraggioso. Questo invece è la stessa cosa col quadro all'inizio, come l'ho trovato lì, e col quadro finito. Con in mezzo le poche indagini che sono riuscito a fare, con la ricostruzione di ragione. Qui la stessa cosa, come la prima indagine, e come adesso. Qui vedete che, meno male, l'intenzione di Moroni non era quella. Probabilmente, con qualche, diciamo, virgola appunto al termine del tempo, era questo. Quindi la domanda iniziale è se vale la pena restaurare un quadro, che sta bene, nel senso non si stava rischiando di perdere un dipinto, semplicemente sta intervenendo, puliandolo e riportandolo al godimento di tutti, come erano i famosi colori dei colori. Ecco. Una cosa, un'altra immagine che ha supportato moralmente la nostra decisione, quello di avere un precedente, questo fa parte di un filippo di Fiorentino, i verdelli e i colori di questi sono, cioè, sono messi con la stessa cosa. Quindi Moroni già ha utilizzato ancora questo modo di abbinare i due colori, mi sembra abbastanza forte. Quindi ho cercato di spiegare un po' questa avventura che doveva essere un semplice intervento di pittura, restauro appunto delle linee, dei chiodi, invece forse arriva anche qualcosa di un po' più difficile. Grazie. Un santo di origine romana, non era un soldato, infatti vedete che non ha indosso un'armatura, era innanzitutto i confini della scrittura sono un po' sfumati e sono molte le biografie che si ascrivono a questa figura. Quella in qualche modo che trova maggior attestazione è quello che lo vede cittadino di Roma, anzi di Cari. che però diventa, che però appunto aderisce alla fede cristiana. Questo non fa felicissimo l'imperatore Diocleziano, che è in realtà l'imperatore che persegue la fedezza cristiana. Di fatto il suo culto, la sua figura passa da Roma ad Aquileia, centro, come dire, fecondissimo per il cristianesimo di quei secoli. La tradizione appunto dice che Diocleziano, per pregarlo, lavorare e offrendogli anche il consolato, quindi una carica anche maggiore, quello dell'Aquileia, ovviamente lui coraggiosamente rifiuta e gli sono destino segnato del martirio, viene decapitato. Quindi questa è la ragione per cui c'è la spada, non è il simbolo del suo martirio, perché spada e palma del martirio sono sovrapposte. Di fatto lui, la famiglia riceve il martirio e viene sepolto. Non è un caso che però la tradizione agiografica delle origini associ alla vicenda di Crisostomo la vicenda di Canzio, Canziano e Canzianilla, anche loro residenti nei pressi di Aquileia. Di fatto poi appunto sono fiorite molti racconti geografici di cui non mi ricordo, però di fatto la cosa importante che probabilmente ha legato i due culti è che San Crisostomo e i tre santi canziani sono stati sepolti nella stessa necropoli. Quindi di fatto il culto di queste quattro figure poi si lega, e la figura di San Crisostomo viene associata. Questo anche perché sia San Crisostomo che i santi canziani vengono poi nominati e identificati come protettori delle vie fluviali. Questo perché ricevono il martirio è poco distante dal mare, ma nei pressi appunto delle sponde del mare. Quindi di fatto il legame, c'è un legame che lega i culti ad Aquileia e poi anche negli altri chiesi, ovviamente magari il culto di Crisostomo che ha attribuito prima, quando attribuisce bene il culto dei santi canziani qua, nel 400. Sempre il nostro Donato Carli, grazie al suo efimere, ci dice della scoperta miracolosa degli resti delle reliquie di Santi Canziani il 31 maggio 1476, mi sembra, o 64. Comunque, tra gli anni 60 e 70 del 400. Lì, sempre come dire per caso, si deve scavare la sepoltura delle chiese di San Crisostomo, miracolosamente emergono queste reliquie. Il vescovo, che a quel tempo era Lodovico Donato, fa l'analisi delle reliquie, le riconosce autentiche, le colloca nell'altare principale della chiesa e a quel punto, il 31 maggio di ogni anno, si fa a Seriate una grande festa dedicata ai martiri canziani, che guarda caso erano il culto, era ospitato nella chiesa invece intitolata a San Crisostomo. Quindi questo per dire appunto anche i legami che magari adesso si sono persi, ma erano molto più evidenti nella devozione di secoli fa. Vi ha visto prima, è appunto un cittadino. Crisostomo vuol dire nato da loro, quindi era, come dire, un cittadino di Roma e aveva anche una divinità in questo. Infatti veste queste due bellissime colore, curva, rosacea, e questo corsetto invece cerulea. E la spada, come già raccontata prima, associata al simbolo per eccellenza del martirio, che è quello che si chiama palma. Di fronte c'è San Crisostomo. San Crisostomo forse ha una vicenda più nota, è appunto il gigante che viveva sulle spine del fiume, aiutava i pellegrini a guardare il fiume. Incontra una sera questo bambino che gli chiede di attraversare un fiume, lo prende in groppa, sulle spalle, scusate, lo prende sulle spalle e nella traversata sente il peso insopportabile sulle spalle e la piena del fiume monta tant'è che vive questa grande difficoltà. Riesce a guardare il fiume, non riesce a spiegarsi perché questo peso così opprimente sulle sue spalle e il bambino dà questa risposta: tu sulle tue spalle hai portato tutto il peso del mondo, come Gesù ha portato tutto il peso del mondo caricandosi della sua croce. Questo come dire, incontro fulgurante con il bambino fa nascere Cristoforo il desiderio di farsi cristiano, si farà battezzare e poi anche lui subirà un martirio. Di fatto Cristoforo, questo Cristoforo, è molto bello, guardate il volto non stereotipato di Cristoforo, è realmente un uomo di mentalità con un volto vivo e reale. Cristoforo è un altro santo, come Crisoforo, legato ai passaggi fluviali, lui molto di più. Quindi è innanzitutto un santo legato ai pellegrinaggi, ai cammini. Ecco perché anche questo mondo pellegrino che poi spesso diventa termina con la palma fiorita, perché non ci sono anche infatti i frutti della palma. Questo per riprendere passaggio più mistici che il giusto fiorirà come palma, il martire è il giusto per eccellenza, ecco perché ha questa palma fiorita. Di fatto Cristoforo è appunto, il suo culto è legato ai passaggi fluviali, qua ovviamente non serve per quello di Cavour, per il fiume è una presenza limitata ed è proprio il suo patrono sono stati scelti come dedicatari del paese principale. Qua lo passo un confronto con un altro, San Cristoforo di Moroni, questo è un stellato, ovviamente una tela esposta su un altare. Mi sembra che ci sia una certa somiglianza a questa opera, appunto, con una cronologia molto precoce rispetto al vostro San Cristoforo, però nella posizione nel braccio, dove la mano appoggia la palma, in queste gambe che danno essere il movimento, c'è un certo richiamo. Francesco, Assisi, di spalle, c'è una grande attenzione sul segno di stigma dentro. Poi vedremo che c'è un filo rosso che lega tutti questi elementi iconografici. Però ecco, San Francesco è in qualche modo individuabile, a differenza dei santi francescani, dagli stigmati che porta sulle mani e sui piedi, quindi sui segni della passione che lui ha, di cui lui ha fatto esperienza nella sua casa. Non è un caso che, guardate quanto è vicino il sangue che vola dalla croce di Cristo al segno degli stigmati. Di Francesco. In molti scritti trovate che è probabilmente il committente. Questo perché anche alle statue del Sant'Anna la palma era quasi invisibile. Quindi poteva essere, essendo anche lui un personaggio che si rivolge in maniera diretta al devoto, poteva essere il committente, come vedremo accade in altre occasioni. Qualcuno troverete scritto che ipotizza che questo committente si chiamasse Francesco, ed ecco perché ha scelto di vendersi spiritualmente San Francesco. Sono ipotesi che non sono riuscite a trovare conferma. Questo è un santo, ha una palma, ha un attributo iconografico che connota come San Francesco. abbiamo questo caso, che è un caso di una tela guerra, forse precedente, vedete che vuol dire il gioco, la soluzione è la stessa. Però questo sappiamo che è l'universo, sappiamo che è un intento, che è il devoto, sappiamo anche come si chiama, e è appunto il rete di cenati, non cucchi. Oppure un po' di domanda di battaglia, sono tutti in realtà inserimenti che però non si travestono da personaggi della scena sacra, e questo per Moroni è in realtà un passaggio molto importante. Cioè, la scena sacra, c'è una distinzione chiara tra il mistero da contemplare, la crocifissione di Cristo, la fascia dei santi, che sono appunto coloro che avviano il devoto che è davanti al quadro, alla devozione. E poi i devoti, vedete che è chiaro il nostro mondo, chi non è un personaggio storico, coevo di San Martino, ha un vestito del 1500. Questo quindi mi fa ipotizzare che non sia il committente, avrebbe avuto un altro peso, avrebbe avuto un altro vestito. Di fatto resta. Però la storia dell'arte è una storia finita, fatta anche di documenti, di trovamenti casuali, di abiti che cambiano colore grazie a un restauro provvidenziale. Quindi potremmo, magari chi però di noi potrà dare risposta all'enigma di questo mondo. Certo è un mondo che interpella e porta dentro al quadro rispetto agli altri. Tutto quello che diceva, e poi per terra lo vediamo molto reale. Concludo con due brevissime riflessioni che sono l'ultimo tassello per comprendere questo quadro, questo dipinto. Abbiamo visto un castellano, quando è stato realizzato, dove è stato conservato, l'abbiamo visto rinascere grazie a un restauro, l'abbiamo visto riaccendersi i colori che hanno reso famoso Moroni e hanno reso Moroni un pittore ricercato sotto le tracce, però un dipinto come questo è innanzitutto un dispositivo di fede, è un oggetto nato per la preghiera dei devoti di chi entrava nella chiesa di San Cristoforo. Infatti ho messo questo titoletto in cui appunto definisco la pittura di Moroni un tramite. Non è in realtà una mia creazione, è una categoria che ha definito lo storico dell'arte che si chiama Francesco Frangi, in cui dice, lui sostiene che in Moroni la pittura non è mai un fine, la pittura è sempre un tramite. La pittura per Moroni è qualcosa di estremamente serio nel cammino di devozione che un devoto fa, che chi entra in chiesa fa. Per cui è sempre la consegna di un mistero da contemplare, e in questo caso il mistero è la crocifissione, con alcuni esempi per nutrire la propria devozione, alcuni esempi chiamiamoli di stile. Ho scelto queste immagini perché è in qualche modo la chiave d'accesso alla lettura spirituale. Davanti agli occhi di questo mondo è semplice, quindi sono gli stigmati, la palma, il dito del quarto santo che poi spinge l'occhio verso la croce, e quindi immaginiamoci gli occhi del devoto che dal sangue verso la croce saltano fino al corpo del Redentore. Questo era l'itinerario mentale che molto suggeriva, e lo suggeriva in un tipo di suo stile, che era appunto quello stile che diceva tanto a capo di me, quello stile appunto decente, quello stile adatto a nutrire la spiritualità, che non era uno stile infatti, perché non era uno stile barocco, uno stile che in qualche modo aveva questo stile così ancorato alla realtà, così semplice, così immediato, questo filo rosso, l'estimo del San Francesco, il segno della passione che si è impresso nella carne di un uomo, la palma del martirio, quindi la consegna eroica della vita. La mano che indica però in realtà la fonte di tutta questa passione, che è il Cristo crocifisso. Quindi i martiri rinnovano nella loro testimonianza la passione e il dono totale di Cristo. Francesco, nella sua carne, rivive la passione del suo Signore. Questa era l'interpretazione più vicina alla cultura della controriforma. Ve ne lascio un po' più contemporaneo che è venuta a me. Tutto questo è vero, però non si può negare che lo stile cromatico di questo quadro sia il perizoma che ci legge i fianchi di Gesù, che sventa su questo cielo che non ha colore, su un cielo cinerio, su un cielo che ha avuto stati di cenere, di nebbia, di grigiore, un cielo che lo viene trafitto da dei raggi di luce che illuminano un paesaggio. Quindi il particolare su cui si posa, su cui si può posare l'occhio, è questo drappo colorato che ha un colore che sa un po' di alba, di sole, che svetta ancora di più perché è sullo sfondo di questo cielo nero. Quindi anche il momento della passione, il momento più scuro, quando si fece buio su tutta la terra, il seme della vita nuova, della risurrezione, è comunque lì, è comunque custodito, anche se l'aria si conferma, anche se tutto è grigio, anche se il cielo sta di cenere, c'è una brezza leggera che fa vibrare questo tessuto che sembra appunto già il vestito della risurrezione, come testimonia anche la luce che c'è dentro. Questa era una piccola lettura proprio per far sì che queste opere non vengano tradite, sono opere d'arte. Sono opere che innanzitutto hanno nutrito e possono continuare a nutrire la fede di chi li osserva, come noi adesso che ne possiamo fare. Non so bene come funziona, ma secondo me. Una pubblicazione con la quale la riuscita a tutti. qui sono esempi che trovate in due foto perché non li hanno tutti, sono un po' e ci sono un po' di raccontazioni sul percorso bolognano tutto per tutta la diocesi e studi delle visibili date che invece ci saranno a serie anche quindi avete anche tutta la documentazione possibile e immaginabile. Grazie ancora a loro. Cioè quelle cuciture lì, di Moroni, sì. Come lo faceva? Con un filo. Sono cucite alle vece, cioè, punto a cavallo. Possiamo far vedere la... con il pennello? No, veniva preparata la tela si mette come dentro, non veniva dipinto direttamente sulla tela, perché sennò il colore sarebbe assente. Però la borraccia per uscire, c'erano così bellata quell'altra. C'erano artigiani che preparavano le tele per i pittori. Allora non si sa se Moroni le facesse lui, forse ci fossero dei, diciamo così, degli artigiani che facessero le cose per lui. Però in genere si cucivano le tele assieme per arrivare alla misura, ma anche in diversi modi. Questo era proprio tipico di Moroni, cioè le due tele intere e il pezzettino sotto. Venivano... faceva lui questo collage? Non lo sappiamo, cioè verosimilmente no. Però dopo la tela veniva preparata. Aveva necessità del tempo, cioè tutti dovevano fare. Possono fare le misure, gli comprava le misure, gli pagava un pezzo sotto. Non mi ricordo se erano tre braccia o adesso non mi ricordo, cioè sostanzialmente arrivavano a 1,30 m al massimo. Per cui per avere una tela di 2,65 m ce ne avevano due e un pezzettino. E probabilmente era una misura abbastanza comune perché ce ne sono vari. Quello di Cenate che è stato restaurato vicino a questo, non quello che avete visto, Cenate sopra, aveva la stessa composizione e infatti aveva quasi le stesse misure. E poi veniva preparato. Ma questa giuntura da sì? Riuscivano a mascherarlo? Allora, all'inizio sì, perché sopra le tele veniva stesa un'impasta fatta di colla, di terra, di olio di lino, in genere leggermente colorata, poi Moroni aveva i suoi trucchi per illuminare i visi, per fare le vesti, cioè, c'era tutto un modo di comporre un quadro. Però insomma questa preparazione si chiama proprio così, evita che il colore vada direttamente in contatto con la tela. Che rimanga comunque leggero perché non è una quantità eccessiva, però ha lo stesso legante del colore a olio, quindi il colore e la preparazione si legano assieme e la preparazione si lega alle fibre della tela. Esatto. Quindi poi col tempo la tensione del telaio, il peso della tela un po' si lasciava andare, infatti in genere dove ci sono le giunture c'è sempre la crepettina che gira. Sì. E anche qui restauro lo chiude perché viene stuccato, però comunque in genere c'è il segnettino, si vede sempre. Quanto è durato il restauro? Questo il mio è anche qualcosa di più. Ma di più? Sì, perché poi comunque allora c'è, vieni a prenderlo, lo porti nei locali dove si fanno i restauri. Poi c'è sull'intendente che deve dare l'ok per spostarlo, solo per spostarlo. Poi dice lo voglio vedere, allora viene a vederlo, quando ti dà l'ok inizia a lavorare. Poi dice lo voglio vedere a metà pulitura, se si fida, allora viene. Per cui ci sono tutti i tempi per cui ti devi fermare, devi aspettare che lui dia l'ok e poi a procedere. Sei seguito. Però il lavoro di chiusura proprio del colore di tutto ci ha impiegato almeno 2 mesi, perché il lavoro sul mantello solo quello almeno 40 giorni, a Varese. Sì, perché c'era parecchio danneggiato, cioè non era solo i buchi neri che vedevate sotto, c'era tutto che era consumato dalle pitture, dal tempo. Sì, ci sarebbe da fare. No, beh, grazie al mio mestiere. Grazie a voi della pazienza. Dobbiamo pensarci.